Allora, buonasera a tutti. Intanto volevo ringraziare la biblioteca, appunto Claudio Augusta e i suoi collaboratori che hanno permesso questa organizzazione di questo libro. E io sarò molto breve perché credo che i lettori debbano avere un rapporto intimo col libro, per cui vi darò degli input su quello che sarà, quello che c'è praticamente dentro al libro, questa storia, e poi diamo la parola all'autore. Allora, l'autore nasce a Marostica, quindi in provincia di Vicenza, vive lì, quindi è veneto, e si è interessato, anche possiamo dire appassionato, a quella che è la storia del Sud Tirolo, dell'Alto Adige, dagli anni 35 eccetera fino ai giorni nostri. È curioso il fatto che un veneto si sia interessato di noi, no? Mentre tanti di noi, non lo so, viviamo qui però non sappiamo tante cose, come è andata soprattutto all'inizio, quando gli italiani si sono insediati qua per aver vinto appunto la guerra e quindi il diritto in qualche modo di stare qui. Il romanzo si apre con un mistero, perché una coppia, Bernie e Anna, sono in ferie, in vacanza in Austria, e durante un'escursione sul ghiacciaio del Großglockner trovano un libro. Non è un libro qualsiasi, è il libro per eccellenza, è la Divina Commedia di Dante Alighieri, che rappresenta quindi l'italianità culturale e diciamo linguistica per eccellenza. E trovando questo libro mezzo consunto, rovinato dalle intemperie eccetera, riescono comunque a leggere una scritta. La scritta che vi vado a leggere è scritta in madrelingua tedesca e dice: Bozen, 25 luglio 1941, a Bastian, nel giorno del suo compleanno. Amore mio, fra 3 settimane partirai. Scrivi, sempre se puoi. Quando leggerai qualche verso di questa commedia, ricordati di me e della nostra commedia, un italiano con una tirolese. Tutti dicono di no, ma io ti dico di sì. Ritorna dall'inferno di questa guerra, ti attendono le mie carezze, i miei baci, il mio amore. È un romanzo questo libro, che snoda la storia di questi due personaggi. Da una parte Petra Steiner, che vive a Bolzano, il padre un ingegnere, vivono a San Giacomo, quindi ci sono anche dei riferimenti a luoghi che noi ben conosciamo, e dall'altra parte Bastian Begni, che arriva su dal Veneto, e che si innamorano. Le famiglie logicamente fanno di tutto per far sì che il loro amore non si completi, e quindi manovrano un po' quello che è il destino di questi due personaggi, a tal punto che lei viene a sapere che lui muore in guerra, nella guerra in Grecia, e lui che lei ha sposato un tedesco a Innsbruck che ha un figlio. E la cosa che più mi ha colpito di questo libro è che io, che non ho vissuto quegli anni, mi sono ritrovata un po' nei racconti di mia nonna, di madrelingua italiana, che viveva nel quartiere Don Bosco, quindi Dux, il quartiere Dux, perché dentro c'è anche questo tema della quotidianità, del periodo della guerra, del dopoguerra, ma sempre con una leggerezza che non appesantisce mai. Ricorda un po' forse anche questo ambiente della Don Camillo e Peppone, l'aria di paese, eccetera. Però vengono diciamo sciolti e presi in considerazione dei temi importanti per il Sud Tirolo, che sono logicamente la convivenza tra italiani e sudtirolesi. E poi viene accennato anche come il popolo sudtirolese a un certo punto si è trovato in qualche modo a proteggere la propria cultura attraverso le catacombe in Schule, dove queste giovani insegnanti di madrelingua tedesca aiutavano i bambini tedeschi logicamente di nascosto a fare appunto scuola. viene accennato anche l'opzione ai sudtirolesi, forse non tutti sanno, quelli che sono nati qui, che a un certo punto è stato chiesto ai sudtirolesi: se vuoi puoi partire, lasciare le tue terre e tutto quanto e andare in Germania, oppure se rimani diventi italiano, no? Quindi l'attenzione particolare anche a cosa hanno vissuto i sudtirolesi, e che comunque si sono trovati lo straniero in casa, no? E legittimato, non è questo il senso del libro. C'è però uno sfondo patriottico, soprattutto in questo libro, da parte di Petra. Io vi vado a leggere soltanto un piccolo dialogo tra Petra e Bastian, quando lei gli fa capire che cosa è per lei il suo Tirolo e la sua terra. Lei dice a Bastian: noi siamo i vinti e voi siete i vincitori. Il rapporto tra le due comunità si basa su questo dato di fatto, e fino a che sarà così non ci potrà essere dialogo né tantomeno soluzioni. Meschine e presuntuose sono le motivazioni per le quali la mia patria dovrebbe essere italiana di diritto. Non sono certo dei monti, un fiume o lo spartiacque orografico i criteri per tracciare dei confini, se questi elementi geografici dividono un unico popolo invece di unirlo. Né si può rivendicare una terra perché qualche millennio prima appartiene ai propri antichi progenitori. La patria non è solamente un nome, un luogo chiuso da confini naturali. Potremmo riempire questo luogo di altre genti come hanno fatto qui in Tirolo, ma non sarebbe sufficiente a renderlo patria, che per essere tale ha bisogno di un'anima, di un comune modo di vivere, sentire e amare. Arte, cultura, lingua, storia disegnano i veri confini del mio popolo, che potrà essere diviso, lacerato ed infine disperso, ma mai assimilato. Hanno cercato di prenderci la scuola e noi l'abbiamo nascosta. Vogliono toglierci quasi tutto il nostro popolo, svuotando le valli con l'option, e noi abbiamo risposto con la resistenza dei Dableiber. Hanno cambiato i nomi delle nostre valli, dei nostri paesi, dei monti e dei fiumi, e noi i veri nomi li abbiamo ancora scolpiti nei nostri cuori. È interessante vedere come Petra parla a Bastian di questo e come Bastian riesce a capire il legame che lei ha con la sua terra. È un romanzo che ci fa pensare, e ogni tanto questo fa bene. Allora io adesso lascio la parola all'autore, se poi volete fare qualche domanda siete liberi appunto di farla. Innanzitutto vi ringrazio di essere venuti, di essere presenti, vedo molti amici, ne sono felice. Chiedo scusa perché non sono abituato a parlare in pubblico, lo dico subito, ho più dimestichezza con la penna che con la parola, ma comunque cercherò di spiegare perché ho scritto questo libro. Il leggerlo lo lascio a voi, perché come ha detto Silvia, il rapporto tra il lettore e il libro deve essere un rapporto intimo, quindi quello che ha letto, quello che capite, quello che assimilate, quello che vi dà il libro, lo lascio a voi. Io ho scritto questo libro perché ho avuto un rapporto fin da giovanissimo con la vostra terra, con Bolzano, con San Giacomo, e venivo qui d'estate a fare le vacanze. Allora le vacanze si facevano presso gli zii, presso i parenti, non c'erano le vacanze di oggi. E qualche estate sono venuto a Bolzano, qualche volta ospite di mio zio a San Giacomo, mio zio Fortunato, qualche volta ospite di mio zio Sebastiano a Bolzano. Ero un ragazzetto di 12-13 anni nel 61, e nel 61 ho visto cosa stava succedendo. Mi ricordo che ho visto la caduta di un traliccio in diretta, cioè io ero seduto e mangiavo un panino alla marmellata sulla panchina davanti a San Giacomo, proprio nella casa di mio zio, e ho visto il traliccio cadere. È una cosa strana, prima si vede cadere il traliccio e poi si sente il botto, arriva dopo il rumore. E io mi sono chiesto il perché, non mi sono spaventato, non sono stato lì a ascoltare i discorsi dei grandi, ero un ragazzino, ma mi sono chiesto il perché, e questo perché mi è rimasto e nel tempo l'ho coltivato, mi sono informato, ho cercato di capire, di vedere al di là di quello che era ovvio, di quello che era chiaro, che sembrava chiaro, e quindi ho appreso la storia di questa regione che improvvisamente dopo il 1918 ha cambiato, nel senso la sua storia è cambiata radicalmente e da un sentiero che doveva percorrere probabilmente ne ha percorso un altro. Un evento più grande di tutti, una guerra mondiale, ha cambiato il destino di questa regione. A quel punto c'erano dei popoli che vivevano in questa regione, italiani arrivati, ricordiamoci anche dei ladini, non bisogna dimenticarli, e c'erano i tirolesi. Mi rifiuto sempre di dire tedeschi, e il termine esatto, almeno da quello che io ho letto, da quello che io ho appreso, per me il termine esatto è tirolese, non è tedesco. I tirolesi parlano tedesco, i bolzanini parlano italiano, ma però il termine esatto secondo me è tirolese. Saltiamo moltissimo tempo e veniamo ai giorni nostri, saranno passati 4-5 anni, in una gita domenicale con mia moglie arrivo a Laives, proprio nel giorno della fiera di Laives, c'è una fiera settembrina, adesso non ricordo più il giorno, e si va a pranzo e si sceglie un locale a casa non sapendo dove andare. Entriamo in un locale assai strano, a fianco della pizza c'è il piatto tirolese, a fianco del piatto mediterraneo c'è il piatto locale, e io guardando mia moglie ho detto, ma che strano locale, questo qui non è che farà tanti affari, ho detto, non so se mangiamo bene, ho detto, perché c'è una frabischione di cose. E quando ci siamo seduti su questa tavola si mangiava all'aperto, era ancora abbastanza bel tempo, e ho capito subito dopo 10 minuti il perché il locale era sistemato così, perché le famiglie che lo frequentavano non erano famiglie italiane, non erano famiglie tedesche, ma erano famiglie, i bambini parlavano tedesco, parlavano italiano. Perché? Perché o la mamma era italiana, o il papà era italiano, o il papà era tedesco, o la mamma era italiana. Cioè, queste famiglie avevano praticamente una caratteristica particolare, e quindi il locale probabilmente era particolare per questo. Allora ho capito che quella storia che avevo nel cassetto e che avevo voglia di scrivere, era giunto il momento di scriverla. Vi lascio a voi poi adesso, se qualcuno a fare una domanda, vi dicendo, io vi ho spiegato perché l'ho scritto il libro. Poi il libro anche, vi dico alcune altre cose, anche altri contenuti, per esempio il raffrontarsi di noi di fronte al tempo, il cercare di cambiare ostinatamente le cose, mentre il tempo poi le rimette a posto. Cioè noi abbiamo un libero arbitrio, lo esercitiamo, talvolta male, ma il tempo si incarica a risistemarlo. È un po' la storia anche di questa regione, di questa provincia, chiamiamola regione, e il tempo l'ha cambiata, il 1918 ha cambiato il suo destino. Il tempo poi, nonostante le dolorose esperienze che sono state, non dimentichiamo il terrorismo, non dimentichiamo i morti, non dimentichiamo niente, perché è giusto ricordare tutto, però il tempo ha sistemato le cose. Io mi domando sempre se questa regione non avesse avuto dei popoli saggi che l'ha abitata, cosa potrebbe essere diventata. E io faccio sempre l'esempio dell'Irlanda del Nord. Questa regione l'ha rischiato di essere un'Irlanda del Nord, ma ha saputo uscirne, e questo è il patrimonio che dovete conservare. Mm-hmm. Se qualcuno ha qualche domanda da fare all'autore. No, io volevo solo dire che ancora oggi però un pochino ci guardiamo. Ci vuole tempo, signora, ce ne vorrà ancora molto, ci vorranno ancora qualche generazione. Ma siete sulla strada giusta. Sì, sì. Secondo me almeno. Anche perché l'amore non ha confini. E questo è il libro d'amore. Io ho risposto molto velocemente. Magari lottato, ma poi alla fine magari. Ma è anche giusto che ciascuno cerchi di lottare per i suoi interessi, per le sue aspirazioni, e ovviamente qui si crea un antagonismo, ma l'antagonismo va visto in un disegno armonico, e l'antagonismo porta anche alla crescita, alla reciproca esperienza, e culture diverse arricchiscono. Non è male unire culture, perché le culture arricchiscono, e però ci siamo sempre attenti di conservare anche le proprie origini, le proprie culture. È una cosa difficile, mi rendo conto. Io che vengo da fuori, dici, lei fa presto a dirlo. Mi rendo conto che è questo. Io vengo da fuori, ma forse è anche per questo. Prendete in considerazione questo fatto. Io che vengo da fuori lo vedo da un altro angolo la cosa. Voi ci siete dentro quotidianamente, magari il fatto del giorno che non è andato come doveva andare, qualcosa che non va bene, che ci dispiace, può portarci ad generalizzare, ad enfatizzare il problema. Io lo vedo da fuori e vi vedo in modo forse un po' diverso, ma forse per questo anche in modo più preciso. Non lo pretendo, però sono convinto di questo. Ma la buona convivenza è intelligenza per me. Ma questo silenzio, penso, quando rispondono, penso che non rispecchi quello che noi sentiamo. Ma sì, lo so. Perché lo siamo so. In minoranza. Sì, lo so. Sì. I figli dei tedeschi riescono ad avere tutti gli incarichi. Lo so. I nostri devono andare all'estero, devono andare in Italia, si dice, no? Ecco, questa è la differenza che non è ancora stata superata. E anzi, penso che peggio di prima, perché adesso sono loro che comandano, non siamo più noi che collaboriamo. Bisognerebbe che non comandasse nessuno. Ecco, e potremmo andare d'accordo. Uguaglianza per tutti. Va bene che la provincia è più tedesca che italiana, Bolzano è più italiana, ma non troviamo ancora quell'amicizia, quella, come si può dire, quella umanità anche, uguale. C'è sempre la parte che supera. Non lo so questo, non è che non conosca. C'è per esempio una catechism school alla rovescia, per esempio, me ne sono informato, cioè c'è addirittura in un paesetto, non ricordo il nome, che c'è stato un insorgere delle mamme tedesche che hanno preteso che i figli dell'asilo italiani frequentassero assieme i bambini tedeschi, ecco, mentre ora già la scuola all'inizio è separata. Io so che sono tutti questi problemi, non li nascondo, li ho ben presenti. Io, come le dico, li vedo da fuori, un'altra angolazione, quindi sono un po' libero da queste quotidianità che voi sopportate, perché so dei concorsi, so dei posti, so di questo e so di quello, non è che non conosca questi argomenti. Nel libro non sono accennati perché il libro finisce nel momento in cui Ilka ritorna, e poi ritorna in Alto Adige e ritrova un Sud Tirolo diverso. Il libro finisce lì praticamente, poi ci sono delle altre spiegazioni che seguono, ma il libro finisce lì. È da lì che bisogna partire, e cioè se c'è questo ritorno, è un ritorno difficile di Ilka, non so se avete letto il libro, è un ritorno difficile. Se c'è questo ritorno, e questo ritorno avviene, vuol dire che qualcosa è cambiato. È lì che, da quel punto lì, che bisogna lavorare. E io mi auguro che tutti questi problemi che avete, che sentite dentro nel vostro cuore, che sono la differenza tra quello che era prima e quello che è adesso, che vengono vissuti anche come ingiustizia magari, come difficoltà, e vengono superati. La strada non è breve né facile, secondo me, è una strada che viene percorsa dalle generazioni che verranno e appunto da queste famiglie che si uniscono, di questi giovani che si incontrano e che daranno l'origine a un altro Alto Adige, un Alto Adige più giusto, a un Alto Adige più in pace, un Alto Adige più in amore. Sì, anche perché oggi come oggi sono sempre più frequenti le coppie, le coppie di lingua miste, capito? E allora forse si riesce a andare più avanti anche. Un'altra cosa. Sì, penso che anche per una persona. Nel libro c'erano la moglie era italiana, cioè tedesca, e il marito era italiano. Adesso non so se è perché conosco mia figlia, però sono ormai di più le ragazze italiane che sposano i ragazzi tedeschi. Sì. E allora adesso si comincia c'è proprio a vedere il sembramento, sì, c'è sì, più un sembramento adesso, dove invece prima era molto. Ecco, vedi. Anche perché a scuola adesso insegnano ecco, io capisco. Materie in italiano e certe materie in tedesco. Allora lo prendono di più il tedesco, invece vieni che ti insegno il tedesco. Sì. Io capisco che una persona anziana, ma non dico neanche anziana, della mia età, che è vissuta qua, faccia più fatica di un giovane. E certamente lo fa perché ha vissuto una realtà precedente che era diversa, dove i rapporti erano veramente diversi, invertiti, e adesso magari sta vivendo una realtà dove i rapporti si sono sentiti esattamente simmetricamente opposti alla situazione precedente. E quindi fa fatica, mi rendo conto che fa fatica e su questo bisogna rendere merito, cioè vivete una situazione che giornalmente voi sentite dentro voi stessi ingiusta magari, oppure difficile, però guardate i vostri giovani, guardate i vostri nipoti e lì troverete la soluzione. È la vostra speranza. Tra i giovani senz'altro, perché adesso cominciano l'asilo bilingue, le scuole hanno lo stesso numero di ore, sia di tedesco che di italiano. Però se lei si rivolge ai capi, sono quelli che sobillano, diciamo questa parola che non è bella, ma sobillano e pretendono. Legge il giornale e ogni tanto qualcuno, e poi uno di lingua italiana e tedesca ha 6-7 incarichi. L'italiano grazie che ne abbia uno e con buone paghe. La provincia ha delle paghe molto alte e noi che siamo semplici dipendenti, no, oppure pensionati, no, c'è una differenza ancora. E ci sarà, ma come dice lei, tra 2 o 3 generazioni, non prima. Ma io spero una, ma diciamo 2, ma non di più. Beh, ad esempio anche il fatto che nel libro venga accennato che lo stesso popolo sudtirolese che si rende conto a un certo punto che gli estremisti nostalgici sì, storicamente. Stanno andando per una tangente poco pulita, sono diventati quelli che uccidono e che lottano senza forse più motivo, già da lì c'è una partenza poi della gente comune che dice no, si staccano da questi gruppi che facevano saltare i tralicci o che... Questo, se posso intervenire, questo è storicamente accertato, c'è stato a un certo momento una frattura e la maggioranza del popolo tirolese ha voltato le spalle a questi signori, a questi... assassini, perché a un certo momento sono diventati degli assassini. E su questo, anche questo vi dovrebbe far pensare e capire che eravate in un punto, io mi ricordo, tanto lo ricordo, avevo 13 anni, le camionette che passavano per le strade con le mitragliatrici spianate fuori, me le ricordo, le ho visti con i miei occhi. Avete rischiato in quel momento la catastrofe, secondo me, perché lì in quel momento poteva succedere che veramente vi sareste trovato un altro Aster, cioè un altro Irlanda del Nord. ma non c'era il substrato, secondo me non c'era il substrato perché ciò venisse, perché il popolo tirolese non aveva diciamo il DNA per fare queste cose. E vi ricordo, c'era questo libro a 180 pagine, ne avrebbe dovuto avere 250. A un certo momento l'editore, che è un piccolo editore, che mi ha fatto gratis la cosa, perché ovviamente all'inizio è sempre così, e quindi mi ha imposto 180 pagine e non di più, e quindi ho dovuto tagliare qualcosa. Adesso parliamo anche di quello che ho tagliato. La fortuna del libro. La fortuna forse del libro. Però ho tagliato quella parte di quando, dopo l'8 settembre, qui c'è stato un rovesciamento, nel senso che sono arrivati, è arrivata la Wehrmacht, sono arrivati la polizia, l'SS, e qui l'attuale è stato occupato da Hitler praticamente, dai neonazisti. E in quel momento, ed è storicamente accertato, andatevi a leggere, perché ci sono delle pagine di resistenza sul tirolese al nazismo, e quando si parla di resistenza tedesca al nazismo si parla sempre dell'attentato che è stato fatto a Hitler, si parla sempre della Rosa, mi sembra la Rosa Bianca, mi sembra l'organizzazione antinazista, ma erano poche cose. Se andate a vedervi la resistenza altoatesina, andate a leggervi la resistenza altoatesina al nazismo, altoatesina intendo sullo tirolese, quella di lingua tedesca, vi leggete delle pagine importanti, e capite che in questo popolo non c'era il DNA del nazionalismo all'eccesso, della guerra. E secondo me non c'era il sufficiente substrato perché capitasse quello che poteva capitare, e quindi c'è stata proprio una frattura. A un certo momento il popolo sottotirolese non li ha più seguiti, questi signori, se si possono chiamare signori, ed ha preso la sua strada, ha capito che, come non c'era stata locuzione dal tempo di Hitler e Mussolini offerta ai sottotirolesi, che è stato un inganno, non c'era più neanche, non c'era neanche l'opzione di questi terroristi, non c'era l'opzione dell'indipendenza, non c'era l'opzione dell'autodeterminazione, c'era soltanto la possibilità di un'autonomia più grande possibile, forse troppo grande a un certo momento, ma comunque dell'autonomia. E capire questo, mettetevi un attimo nell'ottica dei tirolesi, capire questo è un merito, non si può considerare una cosa da poco. Insomma, hanno rinunciato a qualcosa, è come che se veniste a chiedere voi di rinunciare a qualcosa della vostra identità. Hanno rinunciato forse anche per motivi economici, per carità. L'Italia è stata generosa con questa provincia, avranno rinunciato anche per motivi di opportunismo, ma hanno anche rinunciato perché c'era dentro di loro la possibilità di capire e di accettare che questa era l'unica strada possibile della convivenza e della ripacificazione. Ma io lavoravo con una ragazza tedesca, e proprio all'epoca dei tralicci, ed eravamo amiche, uscivamo la domenica e così, e un giorno mi fa: io ucciderei tutti gli italiani tranne quelli che conosco. Ecco, perché quelli che conosci li conosci. Beh, speriamo che anche questo piccolo lavoro mio serva a farsi conoscere. serve a farsi conoscere. È la questione culturale, la cultura. In realtà poi non è, noi abbiamo un concetto di cultura che spesso travalica nel vero senso. Cultura non è conoscenza delle cose, cultura è capacità di relazionarsi agli altri, appunto. Io ho conosciuto un contadino che vive nelle colline di Monteberico, che forse è la persona più colta che abbia mai conosciuto, no? Perché aveva la capacità di relazionarsi anche con la natura, oltre che con le persone. Però c'è la paura, è un elemento che non porta cultura. Il senso di prevaricazione, il senso di rivalsa, sono tutti sentimenti che portano alla mancanza di cultura, intesa come disponibilità di dialogo con l'altro, disponibilità di ascoltare, disponibilità di accettare. Questo è il passo fondamentale. Purtroppo questo passo fondamentale viene molto lento, perché viene fatto soltanto con generazioni che cominciano a perdere il senso di rivalsa, il senso di predominio. I giovani io li critichiamo molto, ma sono la generazione che ci salverà da questo punto di vista. Quello che ho paura invece è che queste due comunità troveranno un accordo per altre paure. E questo è quello che dovete evitare tassativamente. Perché il pericolo è quello che di trovare qualche altro nemico, che può essere extracomunitario, che può essere una persona diversa, perché parliamo di culture da fondere, però qualcuna la teniamo sempre da parte, no? Qualcuna non ci interessa. Io... Se guardiamo il mondo, i paesi più progrediti, ma non progrediti soltanto culturalmente, progrediti anche economicamente, sono quelli che hanno avuto decine di culture che si sono fuse fra loro. L'Australia, gli Stati Uniti, con tutto quello che si può criticare magari, ma l'Inghilterra, tutti i paesi che hanno avuto un Brasile, che si stanno tra l'altro arricchendo anche dal punto di vista economico, proprio perché poi la cultura porta anche, l'accettazione porta anche poi a un arricchimento. Allora io mi auguro che questa comunità, e mi sembra che la strada poi sia inevitabile anche per altri motivi, trovino sicuramente, e questo, in questo senso il libro che ha scritto mio fratello, e tra l'altro io sono un lettore, io leggo moltissimi libri, questo libro mi ha emozionato, mi è piaciuto, perché ha anche altri risvolti che lui non mi ha accennato, ma sì, sono i risvolti familiari, sì, dove io ho trovato mio padre, ho trovato molto molto molto presente in questo libro mio padre, quindi anche commovente per me, insomma. Ma al di là di questo, tornando al discorso della cultura e della necessità di trovare comunque una coesistenza, che sia una coesistenza anche produttiva, no? È proprio quello di rinunciare ai privilegi, di rinunciare alle rivalse, di rinunciare alle paure soprattutto, e più prima si fa meglio, perché poi se si fa rapidamente anche altri popoli potranno trovare integrazione tranquilla su un territorio, tra l'altro, con un territorio straordinario. Per cui mi auguro che questo avvenga. Ecco, io vorrei adesso chiudere questo discorso, che forse era quello che colpiva di più tutti voi, e cennavi anche, perché abbiamo praticamente toccato i due punti del romanzo, ma il terzo punto non ne ha parlato nessuno, bisogna leggerlo forse per capirlo, perché è quello più nascosto e forse anche più profondo. E un protagonista del libro è un certo Bernie. Questo qui non crede molto, non ha fede, anzi non crede nelle cose strane, nelle cose che vanno al di là della ragione. E poi progressivamente questo credere, questa sua impostazione personale, questo suo anche dotato anche di una morale naturale buona, ma però non ha nessun'altra radice, è un uomo razionale e che gli cade delle cose davanti, gli si continuano ad arrivare, e a un certo momento quest'uomo crolla, nel senso che si comincia a chiedersi di perché, di per come, e poi alla fine raggiunge, non trova un Dio, non trova una religione, sarebbe un salto troppo grande per lui, e probabilmente non sarebbe in grado di conseguirlo. Per quanto anche lo stesso personaggio che ho descritto, non potrei averlo fatto arrivare a quel punto, non ci arriva sicuramente, però alla fine credi in una cosa, credi nel tempo, perché il tempo gli ha dimostrato che lui riesce, il tempo, quel tempo che si prende, scusate le bestie della parola, tutto il tempo necessario per sistemare le cose, alla fine riesce a vincere, a dargli il senso di tutto questo romanzo, di tutta questa storia, e alla fine capisce che il tempo sarà a un certo momento un'unica cosa insieme al luogo, sarà una dimensione unidimensionale, e lui avrà acquisito una fede, almeno una fede, una fede la acquisisce, la fede di trovarsi un giorno, che libro io ho scritto, nell'altrui luogo, in quel posto dove ci troveremo tutti. E questa fede viene acquisita dal personaggio, che è anche, diciamo, quello che è il filo conduttore di tutto il libro, che unisce tutti gli altri, le altre vite, gli altri personaggi del libro. Ecco, questo è un punto che magari sfugge, e ci tenevo che venisse capito anche questo, e chi lo leggerà il libro capirà che allora ci sono tre filoni fondamentali, che i primi due li abbiamo visti prima, ma c'è anche questo terzo sotto che emerge soprattutto alla fine. La vita quindi porta quello che deve portare, insomma. Sì, noi cerchiamo di modificarla, ci affanniamo di, ed è giusto così, perché è distinto di migliorarsi, però alla fine se noi abbiamo commesso qualcosa che non va bene, oppure se abbiamo subito qualcosa che non andava bene, mi rilascio sul discorso, alla fine le cose si sistemano. Non è detto che sia io oppure lei che le vedremo sistemate, forse i nostri nipoti, ma si sistemeranno. Ecco, l'ultima cosa, io cercherò di far arrivare, perché certamente io il mio desiderio è di essere letto, lo avete capito da quello che vi ho detto, e cerco di far arrivare qualche libro nelle librerie di Bolzano. Ho un piccolo editore, lo dico subito, è proprio una cosa, se lo vedesse dove lavorano, dove operano, è una cosa proprio fatta in casa o quasi, però avevo avuto anche altre offerte per pubblicare questo libro, bastava che tirasse fuori il portafoglio e loro me lo facevano, perché pubblicare un libro oggi non è difficile, basta pagare. E io l'ho tenuto lì 2 anni, sarebbe potuto uscire 2 anni fa, anzi 3 anni fa, ma l'ho tenuto lì perché non ritenevo giusto, prima di pagare qualcosa, perché venisse letto il mio libro, non aveva senso, e anche perché non avevo nessuna intenzione di spendere, perché ero convinto di non aver scritto niente di eccezionale, anche ora adesso ho qualche dubbio. Però quindi ho dovuto aspettare, e ho avuto la fortuna di un giorno è arrivata una lettera e mi hanno detto se viene giù a Roma e mi firma il contratto, noi glielo pubblichiamo gratis. E allora io sono andato e me l'hanno pubblicato gratis. Però è un piccolo editore, cosa vuol dire? Il rovescio della medaglia qual è? Non c'è pubblicità, non c'è introduzione nelle librerie, vi dicendo. E ho detto, lo pubblichiamo, se poi avrà gambe, camminerà. Ecco. E il libro lo cercherò di farlo presente, io qui ho anche alcune copie, se qualcuno lo vuole acquistare. Vi dico subito che i prezzi di copertina sono 18, ma io sono riuscito a ottenere nell'occasione proprio della presentazione uno sconto, e quindi costerà 15 euro. Ecco, andiamo proprio sulle cose venali, mi dispiace di parlare anche di queste cose, perché, però se qualcuno lo vuole è disponibile. Ecco. E, ovviamente se vuole riscriverò anche 4 righe, sicuramente volentieri. Io vi chiedo soltanto una cosa: dite che c'è questo libro e fatelo leggere. Magari se non vogliono spendere lo vengono a prendere qui in biblioteca, ma leggetelo, perché penso che abbia da dirvi qualcosa.